Avventurieri, siete entrati in una sala immensa. Al centro, adagiata su un nido maestoso, riposa una creatura avvolta in piume incandescenti. Dorme profondamente. Per ora.